in primo piano. In questo mercoledì 14 luglio l'apertura del Sole 24 Ore dal punto di vista economico ci si concentra sulle banche e sull'ipotesi di scongiurare una nuova crisi. Banche UE più trasparenti, questo è il titolo di apertura, con i 27 ministri finanziari dell'Unione che hanno formalizzato la decisione di rendere pubblici il prossimo 23 luglio gli stress test condotti sui bilanci dei 91 maggiori gruppi bancari transeuropei. Una scelta importante anche perché per fronteggiare un'eventuale nuova crisi, una nuova situazione finanziaria difficile a livello mondiale, è un momento importante e lo vedremo. Ma come detto, sono due in realtà le scelte dei maggiori quotidiani. La prima è la maxi retata, ieri maxi operazione contro l'Andrangheta, soprattutto nel nord, e su questo sceglie il Corriere della Sera, la grande retata delle cosche, così come la Stampa, l'Andrangheta Milano 300 arresti, mentre per quel che riguarda la politica e l'inchiesta sulla cosiddetta P3, la Repubblica, la P3 è solo un polverone, questo è Berlusconi, c'è un clima giacobino, mentre l'Unità dice sapeva tutto, e c'è la foto proprio di Berlusconi. Per il Giornale, tremano per 6 bottiglie di vino. Le clamorose carte dell'inchiesta sulla società segreta, un'indagine tutta da ridere. Mentre Libero punta su Di Pietro. Di Pietro è il capo cosca, perché tra gli arrestati ieri nella maxi retata contro l'Andrangheta c'è anche Vincenzo Rispoli, capo del locale di Legnano Lonate Pozzolo, e c'è una foto che lo ritrae con Antonio Di Pietro, che fu già pubblicata nei mesi scorsi. Come detto, ieri Berlusconi, che deve fronteggiare quella situazione politica di certo non facile, e tra l'altro vi preannuncio che alle 9 ne parlerà Oscar Giannino della situazione politica, di questo clima giacobino definito da Berlusconi in una nota ieri, poi l'abbiamo sentita anche in GR ieri sera ha definito questa presunta P3 4 sfigati pensionati che cercavano cambiare il paese, ma dice Berlusconi non ci riesco io, figuriamoci se 4 sfigati pensionati che telefonavano ce la facevano. Sta di fatto che questi 4 sfigati pensionati oggi li troviamo sui giornali in una valanga nuova di intercettazioni. Ecco, dacci oggi le nostre intercettazioni quotidiane, le troviamo un po' ovunque. E davvero, io devo dire, le ho lette un po' tutte con attenzione, ma anche il linguaggio che usano questi personaggi che sono stati arrestati. Allora, intanto cominciamo dai retroscena politici, con Francesco Verderami sul Corriere che dice: il premier è irritato per il caso Verdini. Qual è la vicenda che più lo preoccupa? È quella di Nicola Cosentino, il sottosegretario, del quale ricordiamo c'è anche stata la vicenda della richiesta d'arresto per legami presunti con la camorra. Ora è al centro di questa nuova vicenda perché è stato accusato di avere in qualche modo complottato contro l'attuale governatore della Campania Caldoro, organizzando anche lui, o sapendo comunque, di questo presunto dossier nel quale Caldoro veniva descritto come marrazzo, uno che andava a trans. Francesco Verderami sul Corriere, pagina 9, dice: il premier irritato soprattutto per il caso Verdini. Sulla vicenda Cosentino spera davvero che il sottosegretario Cosentino segua nel gesto che già hanno fatto Scajola e Brancher di recente, vale a dire quello delle dimissioni. Mentre per quel che riguarda Verdini è pronto a tener duro perché la vicenda, secondo il premier, è montata d'arte e non intende cedere alla ventata giacobina e giustizialista che spira nel paese. Certo, però, sta pensando a una ristrutturazione del partito, secondo Verderami, con un coordinatore unico. Sappiamo che ora sono 3 coordinatori, uno di questi è proprio Verdini. Repubblica fa sapere che ora anche Formigoni, il presidente della Regione Lombardia, e Caliendo, il sottosegretario alla giustizia, sono finiti nel polverone di queste intercettazioni. Perché il sottosegretario Caliendo ha partecipato a una riunione a casa di Verdini il 23 settembre, c'erano anche Dell'Utri e Flavio Carboni, mentre Formigoni finisce in queste intercettazioni perché parlava con alcune di queste persone finite arrestate, perché dopo la vicenda del ricorso della lista per la Lombardia che era stata esclusa alle ultime regionali, secondo queste intercettazioni Formigoni cercava di capire se si poteva intervenire in qualche modo sul capo degli ispettori del Ministero della Giustizia, Arcibaldo Miller, per capire se riusciva a risolvere questa situazione. Io dicevo, il tono delle discussioni, sentite qui alcune delle intercettazioni. Intanto Repubblica, i 500 milioni di dollari, Carboni e la Camorra, Denis sa risolvere tutto. Secondo la Repubblica, l'ultimo mistero dell'inchiesta P3 è la missione dell'affarista Flavio Carboni, che giunge a Milano con un pacco pieno di soldi, 500 milioni di dollari, dice lui. 500 milioni di dollari, io non lo so, anche metterli a pacchi, cosa sono, decine di valigie, 500 milioni di dollari. Ma come detto, sentite per esempio come si voleva screditare i colloqui per screditare Caldoro tra Arcangelo Martino, ex assessore arrestato, e Lombardi, Pasquale Lombardi, ex magistrato. Vanno a Roma per perorare la candidatura di Cosentino a governatore della Campania. Stiamo andando proprio per parlare di te, gli dicono a Cosentino. Bravo, bravo, risponde Cosentino. E poi sentite come parlano di Caldoro: l'innamorato dei ricchioncelli è accompagnato dal papà. Questo è il problema, ho capito. Ma se non si comportano bene con te, dicono a Cosentino, noi gli andiamo a dire non ci chiamate più e andate a fare in culo. E poi ancora finiscono questa riunione per perorare la causa della candidatura di Cosentino, dicono al 90% è fatta, poi però ci sono i guai giudiziari di Cosentino che rovinano un po' tutto, ma il tema è sempre questo. Ancora Martino e Cosentino parlano. Martino dice a Cosentino, qua la cosa importante è questo culattone. Immagino sempre Caldoro per questo falso dossier. Sì, va buo, togliamo il culattone. Questo è l'obiettivo principale. Il fatto dei Frocetti rimarrà nella storia. Questo è il sottosegretario Cosentino che risponde. Togliamo il culattone e diventerà forse la frase, il tormentone, tanto che il Fatto Quotidiano lo mette nel titolo all'interno della cronaca di Marco Lillo, il sottosegretario. Bene, Caldoro è nel mirino e Arcangelo Martino dice togliamo il culattone di mezzo. Ma ancora però queste persone che peroravano la causa di Cosentino, della sua candidatura, vale a dire Martino e Lombardi, sentite quando parlano tra di loro che cosa dicono di Cosentino. Martino definisce Cosentino quel cesso di Nicola, però poi lo candidano, lo supportano, dicono dobbiamo dargli sostegno, però lo definisce quel cesso di Nicola. E poi Martino e Lombardi si parlano e si dicono per convocare Cosentino, tu lo chiami solo e gli dici dobbiamo vederci, gli dici così, tamma vedè stronzo. Vabbè, io... Queste sono le intercettazioni. Questi sono anche i dialoghi. Per il giornale, per Alessandro Sallusti, il condirettore, è una cosa tutta da ridere, quasi una cosa alla Totò. Sentite che scrive, tutto si muove attorno all'ennesimo sguaiato attacco della magistratura che ha fatto filtrare 15.000 pagine di intercettazioni informative nelle quali si sostiene che l'Italia è guidata da una società segreta. Ridicolo, una cosa che non ha niente a che fare col lavoro dei PM che hanno inflitto un colpo decisivo alla 'Ndrangheta. Quella che è in corso è un'operazione destabilizzante studiata a tavolino, giacobina l'ha definita Berlusconi. A presunti reati, bottiglie di vino regalate da politici a un giudice civile, si mischiano illazioni su normalissime cene in luoghi pubblici tra onorevoli e lobbisti. Addirittura Formigoni viene fatto passare per complottaro per aver chiesto ad Alfano di mandare gli ispettori al Tribunale di Milano dopo il blocco della sua lista. E che male c'è? Dov'è il reato? Già, ma tutto intanto viene usato a fini politici. Ben diversa la visione, per esempio, che troviamo sul Fatto. Antonio Padellaro, il direttore, Parla di un regime divorato al suo interno da una furiosa lotta per bande che tracolla sotto i colpi delle inchieste giudiziarie, ma tuttavia all'orizzonte non si vede nessuno che possa sostituire quel sistema in putrefazione. È il dramma italiano. Un uomo capace di qualunque cosa che si aggira per i suoi palazzi urlando minacce, un'opposizione indecisa a tutto, una agonia che non si annuncia breve. Mentre per l'Unità, l'Unità è ancora più diretta, mette la foto di Berlusconi col titolo «Sapeva tutto», perché, scrive il direttore Concita De Gregorio, che altro deve succedere? Cesare, così lo chiamavano Flavio Carboni, Marcello Dell'Utri e soci, e sapeva tutto. Cesare, cioè Silvio Berlusconi. Questo dice Concita De Gregorio. Cesare nelle intercettazioni per lei è Silvio Berlusconi. Il capo del governo di questo paese, che sapeva dei ricatti, delle minacce, dei falsi dossier confezionati per screditare candidati non graditi alla cupola. La scelta del nome in codice è il dettaglio che fa luce sulla scena. Basso impero, scrivemmo molti mesi fa. Qualcosa di peggio, l'imperatore, diceva sua moglie, Nerone, e non più nella versione grottesca di Petrolini, una china irreversibile in cui avidità e delirio di onnipotenza trascinano il corpo lacero della democrazia. Intanto il sottosegretario Giacomo Caliendo si difende in un'intervista al Giornale, a pagina 4, dice: resto e a testa alta, non ho mai ceduto a pressioni, parla a Stefano Zurlo. Si dimette. E perché? Dovrei dimettermi perché mi sono comportato correttamente? Nessun imbarazzo. Sì, ho partecipato a una prima parte della cena a casa di Verdini. Ma scusi, c'era anche Flavio Carboni, che all'epoca era sotto processo per il delitto Calvi. Io sapevo che c'erano il magistrato Antonio Martone e Arcibaldo Miller, che è il capo degli ispettori del ministero. Però si è trovato davanti Carboni, nessun imbarazzo, non ha detto una sola parola. Io ho parlato di un convegno sul federalismo con Verdini, l'unico a intervenire è stato Lombardi, poi me ne sono andato. Però, guardi, Lombardi faceva pressing per sondare i giudici della Consulta. Perché non gli ha messo giù il telefono? Sono rimasto sbalordito nel leggere che Lombardi aveva tessuto una tela così vasta di relazioni e rapporti, risponde Caliendo. Per me era solo il segretario del Centro Europeo di Studi Giuridici di cui ero stato presidente. Insomma, poi dice, quando mi telefonava non sapevo come togliermelo di dosso, dunque gli ho fatto capire la situazione. Vedrai, Alfonso non lo fa, sottintendendo che Alfonso Marra, neo presidente della Corte d'Appello di Milano, non si sarebbe piegato ai voleri suoi, che voleva intervenire sulla commissione elettorale. Insomma, Caliendo dice, io mi sono comportato correttamente, cercavo di dire lasciami stare, a un certo punto gli ho detto mo basta, avviso il ministro, ma è stato un modo, come dire, per togliermelo dalle scatole. Sta di fatto, se volete sbizzarrirvi con le intercettazioni e anche col linguaggio decisamente colorito, tra cui l'importante è disfarsi del culattone, prendete qualsiasi giornale in edicola. Italo Bocchino, in un intervento in prima pagina di Libero, insiste, si deve dimettere Denis Verdini, gli risponde Maurizio Belpietro. Insomma, queste sono le questioni. Intanto le svilupperà Oscar Giannino. Due segnalazioni riguardo un po' più di gossip, se vogliamo, legate a Berlusconi e che prima del traffico sono queste. Addio a Villa Certosa, secondo il Giornale, secondo Adalberto Signore, quest'anno le vacanze Berlusconi le passerà a Tor Crescenza, nella reggia dove si sono sposati Totti e Briatore. Ormai è tutto chiaro, non andrà in Sardegna, andrà qui, in questa reggia del 1400. La seconda segnalazione, ve la ricordate, la Croce Rossina, quella che Silvio Berlusconi notò il 2 giugno alla sfilata dei Fori Imperiali, accompagnando la sua sfilata da Croce Rossina con quel gesto che diceva «Però, che Croce Rossina!». Pare che, tra l'altro, leggendo il labiale secondo Libero, in realtà Berlusconi abbia detto «Bella gnocca!». Questo però, insomma, le cronache sono gossip, non si sa. Le cronache più triviali riportano questo. È ricomparsa Barbara La Muraglia, ex indossatrice, 1,78 m, fisico atletico, 47 anni portati con scioltezza. Ieri era alle sfilate della moda di Roma, è stata ingaggiata da Lella Curiel, signora delle passerelle, che ieri nella suggestiva cornice di Santo Spirito in Sassia ha estratto dal cilindro il suo tocco da maestra. Eccola qui, Barbara la muraglia, la Croce Rossina del 2 giugno, la potete vedere soprattutto su Libero, mezza pagina, pagina 17. La Croce Rossina di Silvio fa carriera, è tornata per un giorno indossatrice come era, abito da sposa o è uguale a Veronica Lario. Le mire delle cosche su Expo 2015, il titolo di pagina 23, un'intera pagina del Sole 24 Ore su questa imponente maxi retata contro l'Andrangheta, che, di cui abbiamo sentito parlare anche ampiamente in GR24. Da ieri oltre 300 arresti tra Lombardia e Calabria, c'è anche tutta la mappa degli arresti, la trovate sul Sole, di come le cosche dell'Andrangheta calabrese si sono e si siano insediate, ormai ramificate in gran parte degli affari, delle amministrazioni, anche del nord. Il procuratore antimafia Pietro Grasso la definisce una operazione eccezionale, così come Maroni, che fa un'intervista al ministro dell'interno al Corriere della Sera. Andrea Garibaldi lo intervista, pagina 5. Abbiamo preso il capo dei capi, i politici coinvolti devono essere puniti, esprime grande soddisfazione ovviamente Maroni per questa operazione definita molto importante per il numero degli arrestati, perché dimostra la ramificazione dell'Andrangheta dalla Calabria alla Lombardia. Preso il capo dei capi Domenico Oppedisano, una organizzazione più potente, più pericolosa di tutte, il giro di affari sopravanza quello della mafia, a differenza della camorra a ramificazioni internazionali, è monopolista per la distribuzione della cocaina colombiana di Medellin. Insomma, dice Maroni, una operazione fondamentale. E poi parla anche dell'attualità politica sulle vicende Verdini e Cosentino. Devono dimettersi, chiede Garibaldi. La P2 fu una cosa seria, risponde Maroni. Qui mi sembra ci siano più ombre che sostanza. Ma Scajola si è dimesso senza essere indagato. Gli interessati o il loro partito devono valutare se non lasciare provochi danni al governo o al partito stesso. Noi nella Lega faremmo così. Cosa decideremmo? Non può succedere che uno di noi sia coinvolto in faccende simili. Insomma, abbastanza emblematico Maroni. Certo, poi aggiunge, l'iscrizione nel registro degli indagati non deve tornare a essere una condanna definitiva, come accadeva in altri tempi, però il concetto è molto chiaro, e cioè non può succedere che uno di noi sia coinvolto in faccende simili. Maroni, intervistato sul Corriere della Sera. Vado rapidamente al Sole 24 Ore, come detto, l'apertura sulle novità, questa novità sulle banche con la massima trasparenza per il massimo di credibilità, come definisce Adriana Cerretelli a pagina 2, vale a dire questa la parola d'ordine con la quale ieri a Bruxelles i 27 ministri finanziari dell'Unione hanno confermato di voler rendere pubblici i risultati sugli stress test condotti sui principali istituti di credito dell'Unione Europea. Ma c'è anche un importante articolo sulla manovra a pagina 5 con tre Monti, che ieri ha incassato anche il sì dell'Ecofin, il via libera ai provvedimenti varati dall'Italia per riportare il deficit eccessivo al di sotto della soglia del 3% del PIL, e Tremonti che dice la manovra è migliorata. La cosa importante che dice, si è concentrato sulla riforma delle pensioni e dice, sapete quel comma che avrebbe fatto saltare il limite dei 40 anni di contributi per la pensione, agganciando dunque la pensione non più agli anni di contributi ma all'aspettativa di vita? Ebbene, non è stato un refuso, come aveva detto, fa notare Isabella Bufacchi, il ministro Sacconi. Era stato invece il tentativo di introdurre ulteriore rigore. Avrei preferito che rimanesse dentro, ha detto Tremonti, ma la dinamica non cambia, sostenendo dunque che il sistema pensionistico rientra negli indicatori usati dai mercati per valutare il rischio paese. Dunque Tremonti dice non era un refuso, avremmo voluto farlo, però no. Due citazioni finali. La prima è che trovate, è un'estate incredibile dove purtroppo il numero delle donne, noi ci abbiamo dedicato una trasmissione, il numero delle donne uccise dagli uomini sono 9 nell'ultimo mese, una vicenda incredibile. L'ultimo la racconta, la vicenda assurda, Carmine Festa, pagina 23 della Stampa. Addirittura l'ultimo killer, Domenico Iania, che ha ucciso Chiara Brandonisio, ebbene non si erano mai visti. Avevano avuto una relazione virtuale su Facebook. Quando la donna ha deciso di troncarla, questo Domenico Iania ha preso il furgoncino, ha fatto mezza Italia e è andata a ucciderla a sprangate. Tutta l'Italia in auto per raggiungere la vittima mai vista. una relazione virtuale solo, l'ammazzata a sprangate. A questo proposito il Corriere fa una cosa secondo me meritoria, perché si raccontano sempre dal punto di vista delle vittime. Grazia Maria Mottola invece intervista chi? Uno stalker, un persecutore, uno che ora ha avuto l'aiuto da parte dell'osservatorio sullo stalking, tra l'altro ve lo segnalo www.stalking.it. Nella mente dello stalker vivevo per ucciderla. Nome di fantasia Angelo, 60 anni, magazziniere a Milano, racconta di come era caduto proprio in questa spirale di amore e odio, o meglio solo odio, in cui l'unica fonte del mio dolore era la mia ex fidanzata e volevo ucciderla. Questo mi avrebbe reso libera. Ora, grazie a uno psicologo, ne sono uscito. È un bellissimo, bellissimo perché drammatico racconto. Nella mente dello stalker vivevo per ucciderla, sul Corriere a pagina 23.